cucine sesso è un'idea un po' ribasso, credimi. La tenerezza non è un lusso e poi non ho il complesso di Penelope. Con giorni persi ad aspettare un sogno che ti può salvare il sabato. Sabato per non parlare, chiudersi due ore dentro un cinema. Sognare in due si sogna male, è vero. La luna sa di miele almeno un mese, o no? E allora forse basta crederci un po' per asciugare il mare. Lo dico per amore, chi si accontenta muore. Na na na na na na na na na na na na na na di Penelope. Ancora un po' d'estate addosso, prendimi.